Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, appuntamento come sapete ogni sabato e ogni domenica con i settimanali mensili italiani, anche non italiani, in edicola. Voglio cominciare con una cosa un po' inattesa, un po' leggera, la traggo da 7, sapete che 7, il supplemento al Corriere della Sera, viene distribuito dal giovedì, resta poi appunto in edicola anche nei giorni successivi. Ecco, ho trovato proprio nella rubrica Mix, nelle pagine Mix, quelle che vengono curate da Donatella Bogo, questa notizia curiosa: le patatine fritte sarebbero una droga. Non naturalmente di quelle lecite, sembra di poter precisare. Comunque leggo testualmente che l'irresistibile impulso a ingozzarsi di patatine ha una spiegazione scientifica. Infatti uno studio del Dipartimento Drug Discovery and Development dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, pubblicato poi su una rivista accademica, ha evidenziato il ruolo degli endocannabinoidi nel meccanismo. Sono sostanze prodotte naturalmente dal corpo umano, chiamate così perché il THC, il principio attivo della cannabis, ne mima gli effetti, causando una vera e propria dipendenza. Bene, nei test effettuati i ricercatori hanno verificato che i soli cibi grassi, quindi non gli zuccheri o le proteine, generano un segnale positivo nella lingua che viene poi inviato al cervello di lì all'intestino. Il segnale stimola la produzione di due endocannabinoidi che si legano poi al loro recettore e causano insomma una sensazione di desiderio, quindi una voglia di avere ancora di più di questo stesso cibo che ha provocato a catena tutte queste sensazioni positive. Da qui appunto il titolo, le patatine fritte che sono una droga. Questo appunto si legge su 7 questa settimana. Si legge ovviamente tra molte altre cose anche meno curiose, se volete, ma restando in tema di droga e passando a tutt'altro settimanale, cioè l'Espresso. L'Espresso riferisce in un'inchiesta di Piero Innocenti come il trasporto della droga, e questa volta parliamo di droga per davvero, specialmente di cocaina, avviene ormai sempre più spesso con dei sommergibili. Non so se a tutti voi che ci ascoltate farà lo stesso effetto che ha fatto qui a noi in redazione, ma la cosa sembra un po' inattesa, cioè pensare che si possa ricorrere a dei sommergibili, per di più costruiti in proprio in un certo senso per trasportare la droga, testimonia di quanto sviluppato sia questo tipo di commercio, questo tipo di attività criminale. Vi leggo qualche passaggio del lavoro di Piero Innocenti, ripeto, è sull'Espresso. Innanzitutto l'utilizzo di sommergibili è relativamente recente, perché la prima volta che ci si accorse di questo modo di utilizzare dei sommergibili per portare droga fu nel 1995 in una insenatura a nord della Colombia. Era un sommergibile molto piccolo, ci stavano due marinai, poteva trasportare fino a 2 tonnellate di cocaina, aveva un solo motore e di fatto più che un sottomarino era un mezzo che navigava a pelo d'acqua a una velocità abbastanza ridotta, 8 nodi. Questa vicenda all'epoca, quindi 16 anni fa, destò grande scalpore, ma sembrava un caso isolato. Poi invece alla fine degli anni 90, scrive sempre Innocenti, ci fu il sequestro di 5 sottomarini che appartenevano ai Narcos, e questo diede la conferma di un sistema di trasporto della cocaina che si andava affermando. Qual è la situazione attuale? Beh, se possibile è via via più preoccupante. Allora, negli ultimi 4 anni, scrive l'Espresso, le forze navali statunitensi, colombiane e poi di altri paesi del Centro America hanno sequestrato 79 di questi sottomarini. 3 soltanto lo scorso giugno, sempre in Colombia, nella zona costiera di Necoclí, tra l'altro che è ancora in una fase di ultimazione. La DEA, cioè il Dipartimento Antidroga statunitense, li definisce SPSS, che sta per strutture semoventi semisommergibili, in inglese salta fuori questa P che in italiano si perde. Sono dei semisommergibili che vengono costruiti in Colombia, per lo più in un certo dipartimento che è la Valle del Cauca. E sono territori, questi dove vengono costruiti i sottomarini, scarsamente popolati, abbastanza impervi, con una fitta vegetazione, e quindi lì è possibile installare dei veri e propri cantieri invisibili, lavorarci poi con tranquillità. È stata fatta anche una scoperta di uno di questi cantieri in Venezuela, quindi questo utilizzo e questa costruzione si sta diffondendo. Questi SPSS, cioè sottomarini, sono realizzati utilizzando acciaio, legno e vetroresina, hanno lunghezze variabili dai 12 ai 17 metri, sono larghi circa 3 metri, hanno un'autonomia di 5.000 miglia nautiche e una velocità media di 10 nodi, hanno due motori. La capacità di trasporto può andare dalle 3 fino alle 10 tonnellate di cocaina. Tutti sono dotati di particolari valvole di autoaffondamento, cioè se vengono intercettati, ed è proprio quello che è successo di recente, rilanciando l'allarme su questo particolare modo di trasportare la droga, se vengono intercettati, dicevo, possono disporre l'autoaffondamento del mezzo e quindi rendere anche difficilmente recuperabili le prove della loro attività criminale. Passiamo a una droga molto più quotidiana, parliamo di tabacco, parliamo di sigarette, ne parliamo perché tornando invece in Italia, probabilmente qualcuno di voi ha potuto vedere questa curiosità delle sigarette padane, così per così dire. Sono sigarette che sono state proposte appunto a Pontida, al raduno della Lega, sigarette in un pacchetto ovviamente verde, dove campeggia la scritta Terre del Nord, eccetera. Naturalmente anche qui, come impone la legge, come impongono le norme europee, compaiono anche le scritte il fumo uccide, il fumo danneggia e così via. La notizia è stata via via ripresa da diversi settimanali. Il venerdì, che abbiamo trovato ieri con Repubblica, ha trovato un passaggio un po' particolare, cioè il fatto che queste sigarette sono effettivamente padane, però vengono fabbricate dai romani. E vi do un qualche indicazione in più, spiega appunto Riccardo Bianchi in un trafiletto ospitato nelle pagine del venerdì. A Pontida queste sigarette hanno avuto un grandissimo successo, non poteva essere altrimenti. Dal raduno della Lega Nord stanno approdando nelle tabaccherie di tutta Italia le sigarette leghiste. Si precisa poi che per ora si trovano nel Bergamasco, ma dovrebbero essere poi diffuse un po' in tutto il territorio italiano. Hanno questo pacchetto verde, la scritta Padania, però non arrivano dalla sede di Milano o da una parte di Milano, come si immaginava appunto un utente che le aveva trovate in vendita e ne ha pubblicata poi una foto anche sul suo social network. A produrle è invece un'azienda che ha sede a Roma. E poi precisa sempre Riccardo Bianchi, avvertendo che la notizia non piacerà probabilmente i leghisti più accesi, questa azienda che produce le sigarette padane è la stessa che produce anche le sigarette Roma e Napoli, e con dei simboli appunto della lupa capitolina, ovviamente per le sigarette Roma, e della N che caratterizza appunto la società calcistica del Napoli. Sul retro dei pacchetti di quelle padane, naturalmente, è spiegato che questa sigaretta nasce dai migliori tabacchi della Val Padana e da questi migliori tabacchi rinasce il gusto inconfondibile delle terre del nord. Nella vendita, è bene precisarlo, lo fa anche Bianchi sulle pagine del venerdì, nella vendita non c'è assolutamente niente di irregolare, le sigarette sono regolarmente commercializzate, hanno l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e dei Monopoli di Stato, quindi tutto normale. La curiosità, se volete, è che un'azienda con base a Roma in qualche modo trova un filone di marketing per approfittare di questo brutto vizio italiano e non solo italiano, e giocando appunto sul campanilismo, vendere sigarette padane nel nord, napoletane a Napoli e romane, o meglio, romaniste a Roma. Questo è il dato curioso che forse non tutti hanno colto in queste sigarette padane. E allora, voglio prima di fermarci per ascoltare le informazioni sul traffico, vorrei presentarvi in un modo un po' particolare un'iniziativa che con il Sole 24 Ore stiamo lanciando da ieri, di fatto, perché è partita ieri, proprio in concomitanza con il periodo estivo. Il periodo estivo è tradizionalmente un periodo di test, un periodo per mettersi un po' alla prova con i quesiti, e la appunto da questa mattina sono in vendita dei libretti in cui abbiamo raccolto tutta una serie di domande. Questi libretti usciranno sia il sabato sia il martedì. Le prime 5 uscite, tra l'altro, dei libretti vengono offerte a 10 centesimi, cioè il prezzo del quotidiano del Sole 24 Ore più 10 centesimi. E ci saranno un po', ogni libretto avrà un argomento diverso: la matematica, la letteratura, lo sport, la musica, la storia e così via. Vi posso anticipare appunto che il libretto contiene sia le domande sia anche ovviamente le relative risposte, per rendere il tutto più divertente. Allora, la prima uscita che trovate da oggi è dedicata al cinema. Ci sono le domande molto difficili anche per chi è appassionato. Ve ne prendo una che viene appunto definita per super esperti. Vi darò la risposta dopo le informazioni sul traffico. La domanda è: in quale film di Woody Allen, del comico Woody Allen, compare un giovanissimo Sylvester Stallone? Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Faccio un rapidissimo riassunto. Devo una risposta agli ascoltatori. Per chi non avesse sentito la domanda, stiamo giocando con questi libretti, questi test, libretti di test che proponiamo da oggi con il Sole 24 Ore, ogni sabato e ogni martedì, domande e risposte per misurare il proprio sapere sui campi più disparati. Oggi c'è in edicola il volume delle domande dedicato al cinema. Ho preso una domanda da super esperti e appunto l'ho letta prima dell'interruzione per il traffico. La domanda era: in quale film di Woody Allen compare un giovanissimo Sylvester Stallone? Il film, lasciamo qualche istante se qualcuno l'avesse sentito e ci volesse pensare, però adesso ve lo posso dire. Il film è Il dittatore dello Stato libero di Bananas, quindi un film di un Woody Allen giovanile, e in questo film di Woody Allen Sylvester Stallone interpreta la parte di un rapinatore. Molto divertenti anche nello stesso libretto alcune battute celebri o meno celebri di cui si chiede appunto di riconoscere il film. Ve ne leggo una che sta all'inizio: le merendine di quando ero bambino non torneranno più. Non so quanti di voi ricordano questa frase, viene pronunciata da Nanni Moretti nel film Palombella Rossa. Era il suo approccio un po' prustiano al passato. Questo per segnalarvi questa nuova serie. Martedì avremo in edicola le sfide logiche e matematiche, sempre della stessa collezione. E allora, visto che siamo, come dire, in casa, che stiamo parlando dei prodotti di casa, vi segnalo che da ieri siamo anche in edicola, trovate anche in edicola un'altra puntata dei capolavori del Premio Strega. Questa volta si tratta di Tempo di uccidere, uno dei capolavori di Ennio Flaiano. Lo trovate appunto con il Sole 24 Ore, con la prefazione di Maria Bellonci. Cambiamo invece decisamente argomento per parlare di una modifica di cui molto abbiamo parlato sul Sole 24 Ore, ma che sta prendendo in qualche modo una notevole popolarità anche al di fuori, per così dire, dell'ambito professionale. Vi voglio parlare dei minimi. Cosa sono i contribuenti cosiddetti minimi? Sono dei contribuenti che approfittano di un particolare regime, approfittano in senso buono, cioè possono utilizzare un regime più favorevole per quanto riguarda appunto gli obblighi IVA, gli obblighi contabili e così via. Questo tipo di regime più favorevole ha già diversi anni di vita, però è stato profondamente modificato dalla manovra che il governo ha varato proprio in questo mese di luglio. L'effetto viene raccontato da Mariangela Mianiti proprio sulle le pagine di Vanity Fair con il titolo "La partita ormai è persa". La partita è un gioco di parole, si riferisce appunto alla partita IVA, e dice Mariangela Mianiti: la finanziaria appena approvata crea uno strano caso, 50.000 felici, 500.000 disperati, la prospettiva di tutti quei lavoratori che in regime di IVA fanno fatica ad arrivare a fine mese e dovranno pagare più tasse, come Elisa che dopo aver versato 100.000 euro di contributi ne prenderà una volta arrivata alla pensione poco più di 5.000 all'anno. Questa è la premessa del sommario appunto che spiega il lavoro di Mariangela Mianiti, che contiene poi una serie di testimonianze, ad esempio quella di una traduttrice che spiega: il mio lavoro è un collaborazione commissionato da agenzie, e negli ultimi tempi si gioca tra l'altro al ribasso, quindi si traduce per 15-20 euro lordi a cartella, e da quell'introito però poi bisogna togliere le tasse, la pensione che incide per quasi un terzo dell'imponibile, per la precisione adesso il 26,72%, e ovviamente qualche risparmio. Viene riconosciuta la maternità, che è pari all'80% di quanto si è fatturato nel mese l'anno prima del parto, ma viene riconosciuta solo per 5 mesi. Spiega però sempre Elisa: io non ho avuto diritto all'assegno che il comune riconosce alle madri dipendenti o disoccupate, ma non riconosce alle libere professioniste. Quindi una situazione non facile, non semplice, che viene adesso modificata da queste regole della finanziaria. Ma se in qualche modo siete interessati, voi personalmente, i vostri figli, insomma, vi trovate in questa condizione di avere un regime IVA, di lavorare con IVA ma con importi molto ridotti, quindi siete contribuenti cosiddetti minimi, beh, vi rimando ovviamente alle pagine di Vanity Fair, dove viene spiegato dal punto di vista dei destinatari questa novità, ma soprattutto alle pagine e al sito del Sole 24 Ore, dove appunto abbiamo numerose spiegazioni, numerose indicazioni sulla operatività della manovra. Tra l'altro, da martedì proporremo anche un instant book proprio sui cambiamenti della manovra. Questo è uno dei cambiamenti che saranno affrontati insieme a tutti gli altri. E restiamo in qualche modo in ambito lavorativo e vicini alla finanziaria. Come sapete, nella finanziaria c'è anche una misura che riguarda gli ordini professionali. Della questione si occupano diversi settimanali, si occupa Panorama in edicola questa settimana, si occupa Famiglia Cristiana, che nella pagina a cura di Antonio Sanfrancesco mette a confronto sul tema ordini professionali, abolirli o no, il direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni e Guido Alpa, che presiede il Consiglio Nazionale Forense. La domanda appunto è abbastanza secca: abolire o no gli ordini professionali, a che servono gli ordini professionali? Naturalmente mi corre l'obbligo di ricordarvi, io faccio parte di un ordine e quindi potrei essere considerato di parte. Le due posizioni sono assolutamente antitetiche. Lo stesso Mingardi dice: una riforma delicata e importante come quella degli ordini, di cui si batte da anni, preciserei da decenni, non può essere inserita in una finanziaria quasi di soppiatto senza una discussione adeguata. Detto questo, è da anni che il nostro centro studi, appunto l'Istituto Bruno Leoni, sottolinea che in Italia ci sono troppi ordini e albi professionali che ingessano il mercato. Capisco le buone ragioni di chi dice che l'ordine svolge una funzione fondamentale di controllo a tutela dei diritti dei cittadini e assegna il bollino di qualità a chi vuole intraprendere una carriera, ma non sono d'accordo sul fatto che questi ruoli debbano essere svolti in un regime di monopolio assoluto, così come avviene oggi. La replica di Guido Alpa, che è appunto il presidente degli Avvocati Italiani, dice: noi abbiamo protestato fortemente, dice, la nostra levata di scudi è stata interpretata nei confronti delle misure contenute in finanziaria come una sollevazione di casta, ma non è così. Qui si tentava di introdurre con un colpo di mano norme che non c'entravano nulla con la manovra, che equiparavano le professioni intellettuali alle imprese attraverso appunto l'abolizione degli ordini. Ordini che, ricorda Alpa, svolgono un ruolo delicato di controllo e di garanzia dei diritti dei cittadini. Non dimentichiamoci, è l'ammonimento di Alpa, che nel nostro ordinamento, nelle nostre leggi, esiste anche il reato di esercizio abusivo della professione. Se abolissimo gli ordini, chi vigilerebbe sul medico che ci cura o sull'avvocato che difende una persona indagata? Quindi due posizioni, come avete sentito, assolutamente antitetiche su un dibattito che si rincorre su diversi settimanali. Abbiamo scelto il contributo da Famiglia Cristiana. E allora, Fabio Cantadori dall'altra parte del vetro mi fa cenno che è il momento di chiudere. Abbiamo tempo, direi, solo per una segnalazione brevissima. È estate, tempo di viaggi, naturalmente anche Sole 24 Ore propone sempre i viaggi del sole una volta al mese. Questa volta la destinazione è quella di Amsterdam, non so se vi può interessare, lo trovate in edicola in questi giorni, tutto su Amsterdam, sulla città olandese. Io ringrazio naturalmente Fabio Cantadori, ringrazio anche anche Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma. Vi ricordo che Magazine 24 torna domani, domenica, con una nuova puntata. Se volete scriverci, magazine24@radio24.it. Se volete informazioni su Radio 24, riascoltare questo programma o quant'altro interessi appunto questa radio, la nostra radio, www.radio24.it. A domani e buona giornata a tutti.